selo, para o da São Benedigo, nascida outro município. Otto municipi ci state, una, due e tre, che nel mezzo dopo ce l'ho per la Vupi. Ma la strada del Capri deve venire a strada, ce n'era un'altra. Ma ce n'era tante di questa gente, ma c'è che quella. No? Allora c'era un chiede che la sera segnano una taverna, bettola, e chi li segnano all'opera pubblica. Non vedere io era, quando è chiama lei, la compologia. C'è un bivio, la via Cuba, e c'è un'altra via stretta. Appena in bocca sta stretta, era dopo sulla sinistra, non mi vedevo. Ci andava chi? Sta gentuzza per dire che hanno già un avvenno di poter andare al cinema, se ne andavano a vedere questo teatrino. Ci voleva del lavoro, comportava lavoro immenso, perché sapendo farlo lo dovevano fare tutto completamente, perché era molto bello, perché erano piccole teatrini, non è che erano grandissimi, ci poteva dire chissà una cinquantina di persone, non più di tanto, anche di meno, si chiedeva di tutto, ecco, cioè, per dire, c'era Contegano era un traditore, diciamo, magonzese di Magonza. E allora quando faceva queste cose c'era qualcuno che ci dava coppola, che succedeva veramente di tutto. Cano di Magonza, sì. Perché c'era era traditore, questo era un traditore di Carlo Magno, sì, Carlo Magno. Orlando Renato ci ha detto. Astolfo, questo c'era. Comunque era bello. Allora c'era questo, uno si divertiva e che si pagava se soldi. Una stanza, che vanghi, e un po' così di quello, e chi deve uno che manurava e chi deve parlava. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, Orlando Rinaldo, un colpo di spada non ammazzava un faccio, cala, sono benedito, cala. E là si mangiavano fave galeate, ficere, semenza, cazzuse, chissà. Potevamo avere 8, 10 anni, 11. Ora andavamo una montagna. E l'aceddo volò, e la principessa gridò, e da così dicendo in una storia a un'altra storia ancora, e ancora, e ancora, come a storia di l'orazione di Iurici Giusto, che nudo si arrecò da più buona, e nudo sape come va avanti. Santissimo Iurici Giusto, vi prego picchisiti santo e giusto, per la vostra bontà e lo vostro gusto in terra, scinnisto, pignauce piccatura. Vi prego per la nostra misericordia, dotturi, come fonte di razia e di clemenza, scansami, abbetta mia, di mala sentenza, scansami, abbetta mia, di mala sentenza. Canuddo s'arricoida chiù buona e nuddo sape chiù come va avanti. Santissimo Gesù, Iurici Giusto, vi prego perché siete santo e giusto, e la vostra bontà, lo vostro gusto, terra scinni stupignati peccatura. Vi prego per la nostra misericordia, come fonte di grazia e di clemenza, scansa ma betta mia di mala sentenza, scansa ma betta mia di mala sentenza, scansa ma betta mia di mala sentenza. Canuddo s'arricoi da chiù buona e nuddo sape come va avanti. Ca dice che la sapeva solo a Zabetta, la madre di mio nonno, la mia bisnonna, che dice che se la diceva tutta giusta e tutta veloce, allora a mio nonno che era andato a lavorare non ci poteva succedere niente, che se invece sbagliava a mio nonno che era andato a lavorare ci poteva succedere qualcosa. Canuddo s'arricoi da chiù buona e nuddo sape come va avanti. Ca manco mio nonno se la ricordava più bene. Mio nonno è nato in campagna nel 1907. E mio nonno diceva sempre che sua madre, Zabetta, la mia bisnonna, ci aveva nella mano destra u fare e u sfare d'uscetto di Messina, che dice che portava bene, ci aveva poteri di guarigione, una specie di tocco taumaturgico. Sta cristiana Zabetta, la madre di mio nonno, la mia bisnonna, camminava sempre a così, col pollice della mano destra infilato fra l'indice e il medio, e gliva camminando avanti e in arriere, avanti e in arriere, avanti e in arriere, e recitava questa sua orazione propiziatrice, dove io c'è giusto, che nuddo si arrecoida più buona e nuddo sape come va più avanti. Dice che funzionava pure contro la fattura e il malocchio. Mio nonno è nato in campagna nel 1907 e suo padre, Uzzu Turiddu, il mio bisnonno, era un contadino. E una mattina di primavera del 1917, che già l'Italia da 2 anni era entrata in guerra, tutti e due, padre e figlio, cu carretto, erano andati a scaricare sacchi di frumento al pastificio. Ora, a mente che scaricavano sti sacchi di frumento o pastificio, passano due, ma proprio due carabinieri in bicicletta, califemmano, e ci domanda nel documento Uzzu Turiddu. E ora, a quanto pare, Uzzu Turiddu era pure disertore. Che dire disertore è pure una parola grossa, perché, cioè, come dire, quando è che ci si doveva presentare alla chiamata alle armi, Uzzu Turiddu non si presentò. Ma non perché ci aveva qualche principio particolare, solo che a quanto pare scamparla era più semplice del previsto. Tu non t'appresentavi e poi vedevi come andava a finire. Giustamente c'era fame e come minchia ci voleva ire in guerra. Solo che finio come ci finio, che Uzzu Turiddu lo incucciaro, lo presero e a pappaitere pa' guerra nel 1917. Ora, come fu o come un fu, purtroppo Uzzu Turiddu dalla grande guerra non è più tornato. 6 mesi prima dell'armistizio, nel 1918, si trovava a Reggio Calabria, capo immunite e deperito, che Iddu pensava che forse non mangiando lo rispedivano in casa, e invece dopo, sicco sicco, ci morì. Quando Zabetta andò a trovarlo, che ci impiegò per arrivare da Trapani a Reggio Calabria, 4 giorni andare e 4 giorni a tornare, attraversò su una piccola barchetta lo stretto di Messina, e lì che fece? Immerse la sua mano destra nell'acqua del mare, proprio quel mare che 10 anni prima, nel 1908, aveva distrutto la città di Messina, e che ora 10 anni dopo, nel 1918, a quella stessa città ci stava ridando la vita. Ed ecco perché mio nonno diceva sempre che sua madre, Zabetta, la mia bisnonna, ci aveva nella mano destra ufare e usfare d'uscetto di Messina. Ufare e usfare d'uscetto di Messina. Quando a Zabetta tornò in Reggio Calabria, mio nonno ci fece trovare in capo a tavola una bottiglia di vino che aveva guadagnato per la giornata di lavoro in mezzo ai campi, che giustamente Iddu manco lo sapeva che suo padre aveva morto in guerra, e allora lui non c'era niente di festeggiare, e da bottiglia di vino non sapeva nulla. Ma a Zabetta, sto pensiero gentile che ci aveva avuto sto figliceddo di 11 anni, non si scordò più. Lo Stato, come risarcimento per la morte di Uzzu Turiddu in guerra, ci diede alla famiglia di mio nonno una licenza per aprire una rivendita di tabacchi che tanno allora vendevano di tutto, e in più ci diedero alla Zabetta il posto di bidella in una scuola media. Solo che a Zabetta che fece? A fare la bidella ci mandava la sorella, che s'avevano messo d'accordo e insieme la si spaittevano un stipendio, mentre lei rimaneva a lavorare con i figli dentro la rivendita dei tabacchi. Mio nonno, che a 11 anni era rimasto orfano di padre, continuava ancora a fare il contadino e continuava a fare avanti e indietro dalla città alla campagna per comprare materiale per la rivendita di tabacchi. Ma siccome tanto Iddu era ancora un picciutteddo e non è che ci piaceva tanto fare sto travaglio, allora questo fatto che gheva dopo un città si fermava diversi giorni. Nel 1920, che aveva 13 anni, faceva ancora avanti e indietro dalla città alla campagna e dalla campagna alla città, e attraversava tutta la parte che c'era prima del santuario della Madonna, che dopo tanto solo erano ai volere di mandarine, di figurine, erano tutte pianure, per passare poi a via Faidella, via Garibaldi, poi Tossuna, Turrelligni, i baracche, a Iureco Catito, fino ad arrivare sotto Coppa Loggia. E dopo sotto Coppa Loggia, nel centro della città, ha cominciato a frequentare e a vedersi gli spettacoli dei pupi. I terrini erano combinati, che ce n'era una via Torrea e sarei Don Peppino Le Cause, un'altra ce n'era Cianco, poi c'era chi duro Peppere Ropa e chi duro Rungo, mentre via Nunzionale si c'era Don Ciccio Puglisi, a Santo Liberante c'era il terreno di Don Feril Clucchese, Don Feril Clucchese, scendeva attraversando la via di Corolla e dopo c'era una scinuca, e in sta scinuca c'era in scaluna, e in sta scaluna c'era un passamano di ferro di qualche 4-5 metri, e dietro questo passamano di ferro di qualche 4-5 metri, o piano Canneri, che tanto si chiamava così, e che ora si chiama via Roma, dove c'è una pescheria, c'era un terreno di Don Feril Clucchese, Don Feril Clucchese, che si metteva dietro il lumere tramontana in capo una pedana con una spada a mano e faceva seduta il giornaliero Rucunto, faceva come quando un teatrino i pupi combattono, e siccome danno ancora Don Filippo non c'era abbastanza pupi, ci seguivano i maghi, draghi, serpenti, giganti, insomma tutti i pupi per fare gli spettacoli di incanti, e di chi facevano si andavano in Don Matteo Minuto, non c'era Don Vito Picarella che ce ne prestava lui sti pupi, e da così dicendo mia nonna cominciò a frequentare a Don Filippo Picchi con carretto che c'aveva la stata a banana e il suo padre, il suo dirigio, il mio bisnonno, mia nonna aiutava Don Filippo a trasportare tutti sti pupi e tutti sti scene. Nel 1921 mio nonno continuava ancora a frequentare il terreno di Don Ferilico. E tanto allora facevano due spettacoli al giorno, di 2 ore, 4 ore in tutto. L'ultimo finiva all'11 di sera. E siccome mio nonno era un picciutteddo, capitava che si addormisceva in capo ai tavoli un palco scenico. Venne che in quella data Don Ferilico aveva trasferito il teatrino in via Badia Nuova. E mio nonno si era affezionato a questo teatrino più di tutti gli altri. Ci andava tutte le sere a suonare il pianino a cilindro, un pianino che a manovella è olato, cu puparo ci riceve sonate, da cominciava a suonare muovendo sta manovella a relato. In poco tempo si era talmente impadronito delle scene che non c'era più bisogno che Don Ferilico ci dicesse il numero delle suonate e per la quale c'era la musica adatta, perché oramai li conosceva tutte, un lamento, la battaglia, un galoppo, insomma diventò uno dei preferiti di Don Ferilico Lucchese, che pigliò a me nonno e lo fece a chianare in capo ai tavoli un palco scenico e lo mise a combattere coi soldatini dietro le ultime quinte, perché mica si poteva mettere a combattere un picciutteddo nelle prime quinte, si metteva sempre nelle ultime quinte, ma dalla parte dei pagani e non da quella dei cristiani, che è sempre più un po' tante. Anche se un picciutteddo manovrava i pupi un poco male, non ci si faceva caso, perché non si vedeva tanto bene. Poi mano a mano mio nonno che fece dall'ultima quinta sempre del lato dei cristiani, passò alla terza, e dalla terza passò alla seconda, e dalla seconda arrivò in prima quinta lato pagani, che era una quinta importante dove occorreva una tecnica maggiore e occorreva pure sceneggiare e fare altre cose. E allora mio nonno, quando cominciò a diventare ancora più pratico, Don Ferilico che fece, pigliò di nuovo a mio nonno e dalla prima quinta del lato dei pagani luttò di nuovo nell'ultima quinta, ma stavolta l'ultima quinta si trovò a un lato dei cristiani, e dall'ultima quinta del lato dei cristiani mano a mano passò alla terza, e dalla terza passò alla seconda, e dalla seconda finalmente passò alla prima quinta del lato dei cristiani, che è la quinta più importante, che è la quinta dove si mette il primo puparo, che è la quinta dove si muovono Orlando e Rinaldo, Orlando e Rinaldo, Orlando e Rinaldo, una quinta ricca, una quinta ridda, una quinta ricca, una quinta ridda, una quinta ricca, una quinta ridda. Ora faccio un segno, lo cancello, un altro lo cancello di nuovo, all'improvviso un fiore sboccia. Che vuoi dire? Vuoi dire che 20 anni fa mi trovavano i miei compare Giacomino, o vai vere? Che mio compare Giacomino, che fa il barbiere, è pure più grande di me, e che già suo padre faceva il barbiere, e che addirittura suo nonno faceva il barbiere. E allora, siccome tanto nei saluni arriva il vero, si parlava sempre di operare pupi, di Orlando, di Renai, da Spada a Duellendana, allora Giacomino, a forza di sentire tutte queste storie di picciriddo, si affezionò a queste storie. E insomma, la para 20 anni fa mi fa: senta mia, ma tu contavo questo fatto che mi è successo una para di mesi fa? No, Giacomino, contami, lo che ti è successo? E mi conta questa storia e mi fa: allora, 20 anni fa mi trovava che camminava pu Catito, vicoli, vicolicchi, strade, stratuzze, che aveva a gira a trovare A me compare Giacomino che si trovava a Doco, che abitava a Doco e si aveva trasferito Ripicca. Insomma, arrivo davanti a sto puittone che mi pareva un puittone di Giacomino, piglia e sono. Ma non succede niente. Ma rispunno, proprio di nuovo, ma non mi rispunne nudo. Allora che faccio? Faccio pigliere minne. Quando la rera poetta piglia e sento una voce ripicchiaredda che fa... Cue? Giacomino! Iacozzo! Nipote mio! Apre la porta e m'abbraccia. Iacozzo! Nipote mio! Mi veniste a trovare! Sapevi che eri sola e mi veniste a trovare! Idda era molto vecchia, ci avrà avuto almeno 90 anni. Ma la prima cosa che noto di lei è che è cieca. Iacozzo! Sogno veramente contenta che mi veniste a trovare! Che io non sapevo che fare, e prima che realizzo che faccio, l'abbraccio pure io e ci dico: sì, nonnina, ti venne a trovare, sapeva che eri solo, e ti venne a trovare. Idda era vecchia, ma uscire vedo ancora ci funzionava buono, e sapeva benissimo che io non era suo nipote, ma insieme decidiamo di giocare e di passare tutta la giornata. Allora entro con lei e sto con lei. Mangiamo, beviamo. E quando mi domanda di contarci come vanno le cose, ci dico che stai buono, che travaglio, che addirittura mi devo sposare. Bravo, Iacozzo mio, bravo. Sogno veramente contenta che stai buono. E continuiamo così. Ne trasferiamo in soggiorno un capo divano. E quando Ida mi domanda ancora di contarci cose, io ce le conto. Fino a quando poi, a forza di vivere e mangiare, giustamente aveva ghiere in bagno. E allora, per ghiere in bagno che succede? Attraverso un corridoio. E attraversando sto corridoio, piglia la situazione, mi piglia tutta un'altra piega. Le corna, tirati sotto tu, che con un colpo di scimitarra ti strappo il cuore fumante dal petto. No! Lasciate che il paladino torni al castello. Oh bandito, due giorni di feste, danze, giostre, divertimenti, a desinar si vada. Tirati sotto tu, Rinaldo, che con la mia durrindana ti strappo l'elmo e pure lo scudo. Tirati sotto tu, Orlando, che con la mia fusberta e la mia superbia ti prendo e ti butto a te. Insomma, per andare in bagno che succede? Attraverso sto corridoio e vedo che tutte le pareti di sto corridoio sono ricoperte di pupi, paladini, maghi, draghi, giganti, elmi, scudi. Mi giro in un angolo e vio pupi, mi giro in un altro angolo e vio pupi. Insomma, impazzivo, non ne capivo più niente. Allora pigliai e decisi che volevo un pupo. Afferrai un pupo, afferrai una spada e li portai vicino alla porta dell'ingresso. Camanco ci avrò messo più di 3 minuti, ma nel frattempo torno in soggiorno e mi accorgo che la vecchiaredda, la nonnina, si era addormentata. Ci avesse pure voluto scrivere un bigliettino di saluti, ma non l'ho fatto visto che era cieca. Allora pigliai un pupo, pigliai una spada e me nevo. Solo dopo, pensandoci bene, collegavo attentamente tutto e capivo che da vecchiaredda, la nonnina, era la moglie di Don Ferilico Lucchese. Che io, arrivato a sto punto di sta storia, non vai vedere lo femma a Michele, lo vai vedere. E ci dico: Michele, fermate, che sta storia te conto io. Sta storia te conto io, di Don Ferilico, un puparo e un contista di cui mi contava sempre mio nonno, e mio nonno aveva cominciato a fare l'apprendistato per l'opera dei pupi. Mio nonno sempre mi contava: come fa o conto Don Ferilico Lucchese o non fa nudo. Parano veri dei personaggi che conta a storia di Orlando, del Rinaldo, Angelica, a spada d'Urlindana. A chiana in capo una pedana, sai sai mani che era cammisa, si piglia una spada a mano e accomincia a fare o conto. Dunque, signori miei, come vi lassavo ritto l'ultima volta, sotto le mura del castello di Montalbano, si stanno affrontando in un gran terribile e spietato duello, uprì, mo paladino di Francia ardite franco e degna Carlo senatore Orlando, conte di Brava, contro Rinaldo, secondo paladino di Francia, principe di Montalbano. Ora dirò campioni fieri e valorosi e paladini, sono l'uno in fronte all'altro. Si scrutano come dottori inferociti, impugnano tutte quante due le armi. In capo li cava d'Orlando con Vegliandì, non Rinaldo con Baià, di tutti lui sono pronti, forti, valorosi e coraggiosi. Pungino di cava di Isano di là, inciappa, sono di scudieri, si incontrano e si scontrano con di là, incina là, raga fanno mille frammentamenti, combattino dopo verà, sacchiano in capo li cava, in capo li cavalieri, cuppona tutti quanti lo su, le forti, le palarini su tutte surate, eppure la scumazza ne esce di la vucca di li cavati, fino a quando tutta una volta con un corpo di scudo che faceva Ponte Orlando, che fu un capo Rinaldo che cari ribaiaido, afferrano tutte le spade, l'uno e l'altro, uno con d'Orlinda, nella rucuffo sberta, colpe d'età, di punta che sarà, vanno di campioni, facendo che un terribile spietata battaglia, ruti a fanno di spade, dentro all'aria che scintilla vanno luce, vanno come fai di cafudda, va ancora Orlando faceva ponte Rinaldo che non si arrende, va sapendo che Orlando lo poteva battere perché era il terzo giorno d'incontro e tutti sapevano che doveva morire, do che Montalbano dal castello tutti guardavano il duello, ma non poteva gridare all'arme perché sapevano che non si poteva interrompere fino a qua non Rinaldo cafuddando un colpo di spada e Orlando facendo ponte allora Rinaldo s'abbassa ancora Orlando Cafu del Rinaldo ancora e ci dice vieni qua che storti che te rompo le corna. E mentre ancora Orlando e Rinaldo sotto le mura del castello di Montalbano facevano gran terribile e spietata battaglia dentro le stanze del palazzo reale, Carlo Magno riunisce il consiglio. Viva Carlo Magno! Viva! Viva! Ie viva! Ie viva Carlo Magno! Viva! Si grida Carlo Magno! Imperatore d'Italia, ere di Francia. Sono fiero ed orgoglioso di vedermi circondato da così tanta nobile e fiorita gente. Nobili e valorosi paladini tutti. Oggi ho voluto riunire il consiglio per informarvi di una cosa molto importante. Sotto le mura del castello di Montalbano si stanno affrontando in un vergognoso e vile duello mio nipote Orlando I, paladino di Francia, contro Rinaldo suo cugino. E così facendo stanno disonorando gli onori dei reali di Francia. E da così dicendo, signori miei, mentre ancora Carlo Magno dentro le stanze del palazzo reale riunisce il consiglio, ancora sotto le mura del castello di Montalbano i due paladini forti e valorosi fanno gran terribile spietata battaglia. Canuddo quella notte poteva dormire a Montalbano perché sapevano che le sorti di Rinaldo erano spacciate, perché chi combatte contro Orlando per tre notti e tre giorni deve morire. Io mi chiedo, sta storia la saccio. E ti conto io, che poi Don Federico, oltre a fare un conto, faceva pure o canta la notte. Che chi sti canta la notte erano sti cristiani che chiamano camminando all'alba tra i vicoli e strade della città. E camminando all'alba si mettevano a cantare. E cantando dovevano svegliare chi sti che avevano a ghiera a travagliare. A chi sti che avevano a ghiera a travagliare, da sto canto venivano svegliati come una sveglia mattutina, un gallo mattutino. Che invece chi di che avevano ancora a restare in casa a dormire, da sto canto venivano cullati. Questa storia la saccio e ta conto io, che poi Don Federico in vecchiaia non contava più. E si stava tutte mattine a Villa Margherita a leggere sul giornale che i cristiani ci passavano e ci facevano: Amoni, Don Federico, ma che fa nella vaffari sto conto? E lui ci rispondeva sempre: preferirei di no. Che io mi chiedo, sta storia la saccio e ta conto io. Che a forza di dirci che io mi chiedo, sta storia la saccio e ta conto io, ci contavo tutta e poi me nivo. Che erano veramente storie che mi raccontava mio nonno. Mio nonno sempre mi contava. Tanno all'opera dei pupi c'era una passione generale. La gente impazziva per spettacolo dei palarini. Era gente semplice. Artigiani, pescatura, contadini, una poco molti fame puro. Si pagava uno, due soldi, oppure in natura. Antichia cacio, antichia pana, antichia sasizza. Oppure si pagava anche in servizi. Un taglio di barba, due giorni d'ingresso. Un taglio di capelli, una settimana d'ingresso. Un paro Skype, una mesata d'ingresso. La gente impazziva veramente per l'opera dei pupi. I vecchi sapevano vita, morte e miracoli di tutti i palarini. Tanna storia contava di 371 puntate di tutta la storia di Carlo Magno. E i vecchi sapevano tutto. E se per caso un puparo si arrisicava ad accorciare l'episodio, dalla sala si sentiva contestare all'urlo di Tagliarini! Tagliarini! Che vuol dire stai accocciando, un t'arresicare l'episodio lo devi fare tutto, fischia e pirata che volavano a Docorinte e coi pepignatelli che siano assettati in aravanti, ne incapeva anche, che poi passava l'acquarolo o semenzaro, che venivano fave caliate, cici, la semenza, acqua. E allora, per contrasto, in mezzo a sto buidello, invece, quando in scena si calava l'angioletto che si veniva a pigliare l'anima, lo paladino morto, la gente si levava la coppola e si segnava. C'era veramente una passione generale. La gente impazziva per lo spettacolo dei pupi. Mio nonno mi contava di un certo Ciccio Urriccio, che sto cristiano era innamorato della rinalderia. e ci aveva dato ai suoi 5 figli maschi i nomi dei suoi beniamini e li aveva chiamati uno Orlando, uno Rinaldo, uno Fioravanti, uno Riccardo e uno Ricciardetto, e le sue 2 figlie femmine le aveva chiamata una Drusiana e una Angelica. Ma non mi contava Rozzo Mommo Nano, un vetturino, grandissimo appassionato dell'opera dei pupi, che ci aveva dato ai suoi 2 cavalli i nomi dei cavalli di Orlando e di Rinaldo. Uno l'aveva chiamato Baiardo e uno l'aveva chiamato Vegliandino. Ma nonno mi contava che il suo barbiere, un nonno Michele, l'amico mio va e vere, ci aveva dato ai suoi 2 rasoi i nomi delle spade di Orlando e di Rinaldo, e uno l'aveva chiamata Dorlindana e una Fusberta, e dice che pure l'uscia scarpe chiamavano così le loro spazzole. La gente impazziva veramente per lo spettacolo dei pupi. Dice c'erano chi ti favano per Orlando e chi ti favano per Rinaldo, gli orlandisti e i rinaldisti, ma tutti odiavano ad un fame e tariture del pupo Gano di Magonza, che ogni volta che traseva sto pupo in scena cominciavano a volare parole a mai finire, pezzi legno, paracqua, coppole. Gano di Magonza, fame e tariture, grandissimo figlio di buttana. Una volta passò di dopo un cristiano che si fosse a cattare per forza d'un puparo il pupo di Gano di Magonza. Allora sto cristiano che fece? Appena per sto pupo, pigliò sto pupo, lo legò a un palo, pigliò una lupara e ci sparò. Era come che avendo sull'Inter. Se siamo a Dio, Orlando buscava le cicche, il paso vecchio veniva già di raccudellate e marrugiate. Orlando e Rinaldo, ognuno sapeva, c'erano gli orlandisti e i rinaldisti, sono due quella. E poi i cani di Magonza erano chi di tutti i rinaldisti. Minchia, ma c'è una rivalità, una cosa da fare impazzire, c'è da scandare. Non è che c'erano cudellate, per la madre, ma marrugiati, ma cazzotti c'è nera. Tutto di nera, c'era solo Juventus e Inter. E dai, chi se c'era? Minchia, Orlando e Rinaldo. C'è una frase stupenda di Don Federico. E c'è tanto di tempo pescatura di Cicereggio, Upiscia, non è che avevano frigorifere e cose, quando su Pittale ce ne stavano a mezza strada, e allora bastava sto carrettino, i carretti a mano si dicevano, nichi, e allora si fa Don Federico, basta un Cicereggio, e io siccome era sul timore di Parigi, aveva chiesto a questo Parigi, e allora che un po' di affare, boom, boom, tutti stavano, boom, boom, casino, e allora a me io già era un impegnatissimo perché ci fa un putiacchio che sta passando, ci fa comprare mezzo chilo e porta sotto le mura di Parigi, lo facciamo fitto fiuto. A storia la facevano loro, si pagavano due soldi, i piccioli si picciavano, li chiedevano, siamo già sempre, perché, e poi non dicevano più, allora li pigliavano, si buttavano tanto i baschettini, cacicchia, il famoso basco, chi che viene spagnolo, francese, allora lascia il basco il gioco, allora la bottineria, davanti un bigliettino, ce la stava un benedetto, non trovavano più, perché diceva, chi la birra a mio padre, la birra a mio zio, non freddo che c'era da dire, lo sei scelto. Che erano veramente storie che mi raccontava mio nonno. Che io me lo immagino lì a mio nonno dal barbiere, a mentre che si fa la barba. Qua è vero, ci fa: come vuoi che te la taglio, sti onna la faccia? Ca dulle indana o ca fu sberta? E allora le voci finiscono, le luci si spengono e di rasoi si cominciano a trasformare in spade. Colpi di vampe e di fuoco che cominciano a ruotare dopo. Che io me lo immagino veramente a mio nonno lì dal barbiere, a mentre che si fa la barba. Che si mette a sognare e si mette a pensare a un fatto di quando lui era picciotteggio e di quando una volta passò du teatrino uno straniero, un francese, che sto straniero c'aveva voglia di vedere lo spettacolo dei pupi ed era pure un poco curioso di capire come funzionava tutto quanto, solo che c'aveva un poco di scanto. C'aveva un poco di paura ad andare al teatrino da solo, visto che era straniero e un poco colto nobile, avendo che aveva sentito dalla chiacchiera della gente ricca siciliana, il teatrino dei pupi era solo per le classi umili e che era il motivo delle molte sciarre, delle molte liti di cui lui tanto aveva sentito parlare sui giornali e di cui tanto aveva letto in giro, di questa gente che assai si suggestiona a tagliare i combattimenti dei palarini nei teatrini, che poi magari fanno all'inizio per scherzo nella vita, che invece poi si trasformano in duelli veri e propri, che poi alla fine finisce a tragedia. Ed è per questo che chiediamo la chiusura di questi luoghi teatrini. Camenonno ci disse: messie, non si può occuparsi, che fino a quando cammina con mia, problemi non ce ne sono. Allora prima ci fece fare un giro per le strade della città e, come di giusta regola, faceva stare un francese alla sua destra perché era l'ospite, e se per caso un ostacolo lo costringeva a passare a sinistra, io subito in un attimo facevo un giro e un francese si ritrovava di nuovo lì al posto d'onore, fino a quando poi finalmente lo accompagnò dietro le quinte del teatrino. E dopo si trovarono in mezzo a una vera e propria selva di tutte ste pupe appizzate a muro, che ce n'erano a dozzine e a dozzine, ce n'erano almeno 400-500 di tutte appizzate dopo a muro di pupi, che con francese appena trasio non ne capì più niente. Allora mio nonno ci fa: allora, messie, sentessa mia, lo vedi che sto qua? Questo è Carlo Magno, o primo paladino, un re di tutti i paladini, Carlo Magno, che pure in lacrime per la morte di un nipote avvenuta ieri sera. Per chi, messie, possiamo sapere che tutti i paladini che hanno subito un lutto recente portano una fascia nera attaccata all'elmetto. Allora mio nonno che fece? Accompagnò un francese in mezzo a tutti i paladini, ricorrendoci vita, morte e miracoli, e dicendo di tutta la genealogia dei pupi. Messie, allora, sentessa mia, invece lo vedi che sto qua? Questo è Orlando, o primo paladino di Francia ardito e franco, e degna Carlo senatore che porta il tricolore. Orlando, messie, conte di Brava, e invece chi stucca, messie, è Rinaldo, o principe di Montalbano. Rinaldo che la virtù di vincere nominando le tre persone divine, e che quando nascio c'aveva chiuso nella mano un pezzino, infatti lo chiamavano mafioso, che non sto pizzino c'era scritto insieme al nome che Dio imponeva ci si doveva dare le indicazioni di questo suo sovrannaturale potere. Messie Rinaldo che ha ucciso tutti questi giganti qua: Feboro, Chiarello, Costantino, Brunamonte, Salimarte, Gattamogliere, Galimperno, Mambrino, eppure Dama Rovenza, messie, talasse quante bella Dama Rovenza, messie. Dama Rovenza è una gran terribile guerriera e regina saracena che fa grande strage di tutti i paladini, maghi, draghi, elmi, scudi, cavalli, a colpi di martello, messie, a colpi di martello. Martello, messie, a colpi di martello, che poi Dama Rovenza viene sconfitta con l'inganno da un affascinante Rinaldo, che si finge morto sul campo di battaglia, che Dama Rovenza rimane innamorata e disarmata per essere infilzata dalla spada di Rinaldo là dove non batte il sole mai e origine c'ha la vita di noi poveri mortali. E che ci vuole fare, messie? Kiddo era un punto debole di Dama Rovenza, visto che tutto il suo bellissimo corpo era affatato. E la vede questa qua, messie? Questa invece è Bradamante, la sorella di Rinaldo. Li vede i capelli di Bradamante, messie? Sono di Caterina, la figlia di Don Federico. Bradamante morirà di dolore questa sera nella puntata che faremo stasera al teatrino per la morte di Ruggero da Risa. Ruggero da Risa ucciso ancora una volta per colpa del tradimento del conte Gano di Magonza. Capoi, in mezzo a tutti sti paladini, draghi, maghi, giganti, eroi, o francese vita un poco unico, cuito, la riceddo, che si chiamava Vitticchio, un poco i faissa. Allora, un poco per scherzo, un poco più babbio, o francese ci disse a me nonno che fosse stu pupo in mezzo a tutti sti paladini ed eroi non c'entrava niente. E me nonno ci fa: ma, messie, forse vossia potesse avere pure ragione, ma Vitticchio è stupendo. Allora lo portò in un sottoscala di legno dove tenevano tutti i pupi dentro dei sacchi di stoffa per proteggerli dalla polvere. E di nuovo, un poco per scherzo, un poco più babbio, Francese ci disse a me nonno che forse sti pupi dentro sti sacchi di stoffa potevano soffocare. E me nonno ci fa: messie, allora forse un amo caputo. I pupi lo sanno che noi lo facciamo per il loro bene. Chisto sicuramente si ricordava me nonno dopo dal barbiere a mentre che si faceva la vaiva. L'episodio ru Francese, ru Scianiero, Caidu ci aveva rimasto sempre impressa sta descrizione che ci aveva fatto o forestiero. Ma poi di lì in poi, a cominciare dagli anni 30 fino ad arrivare alla fine degli anni 50, mio nonno di teatrini ne ha aperti assai. Fino appunto alla fine degli anni 50, che come diceva lui, a cominciare della fine degli anni 50, ha cominciato l'inizio della fine di tutto. Di quando spuntava sta televisione, oramai non si capisce più niente. Sta televisione spasciava tutte cose. Oramai la gente non va più al teatrino. Capuro chi di ru cinema ha però abbassato un biglietto a più picco e pure un'area di teatrini l'ha a mettere a meno sto biglietto. Allora la gente ha cominciato a sbandare e non sa punire se giro o cinema o teatrino. E quasi quasi si stanno tutta a casa a bere la televisione. Oramai sta televisione la trova a tutte banne. Ravanti Poittuna, Rintresa Luna, poi un paellamo di bar che questa televisione ci fanno speculazione. La gente oramai non è più attaccata all'opera dei pupi. È una cosa antica. Oramai la gente è alla conoscenza dei palarini. E allora che fanno? Se stanno in casa e si tagliano sta televisione. Che io poi mi mettevo a camurria. E ci dicevo: vabbè, non ti preoccupare, contamilla qualche storia ai palarini, non ci fa niente, se oramai i gente non ci vanno più tutta assai o teatrino. E mio nonno allora mi contava. E mi contava storie. E una volta mi fa: io una volta conoscevo un cristiano, che sto cristiano era più vecchio mia, e sto cristiano che era più vecchio mia faceva lo stagnino, e sto cristiano che era più vecchio mia e faceva lo stagnino quando era giovane era stato garibaldino, e sto cristiano ora rivecchio si vesteva tutti i rumini che garibaldino e si faceva in una punta, a un'altra punta, lo paese vestuto di garibaldino. E tutto questo per confermare che una volta era stato garibaldino. Che io ci dico: bella sta storia, nonno, ma chi c'è già se sto riscusso che i palarini? E mio nonno mi fa: c'entra. Picchi, i palarini un suo mestiere antico di quando c'era Garibaldi. C'entra. Ricordati che noi siamo gli infiniti uomini che ne hanno preceduto. C'entra, c'entra, c'entra sempre, o senso l'appartenenza, c'entra sempre. Vecchiaia fu invitata a Parigi a fare uno spettacolo. Allora, a mentre camminava con l'accompagnatore professore in taxi per Parigi, mio nonno ci fa all'accompagnatore professore: che fa? Possiamo passare di là dove c'è la statua a Carlo Magno? Che fa? Possiamo passare là dove c'è la statua a Carlo Magno? L'accompagnatore parigino, che era appunto di Parigi, manco lo sapeva un era sta stato di Carlo Magno. Allora mio nonno ci favamo e mi facesse passare il dopo questa statua, e io ci addomandò allora l'accompagnatore professore o tassista, che fosse un tassista lo poteva sapere, che manco tassista sapeva un era sta stato di Carlo Magno, solo che giusto giusto ci avevano un libretto di questi turistici e capero che sta statua di Carlo Magno poteva stare dalle parti della cattedrale di Notre Dame. Insomma, arrivano da quelle parti e Carlo Magno era là a cavallo. Mio nonno era commosso, mio nonno era veramente commosso. Bene, adesso andiamo, ci fa l'accompagnatore professore. No, vorrei vedere dov'è che sono le mura che Orlando e Rinaldo hanno difeso dall'attacco dei saraceni. Vorrei vedere dov'è che sono le mura che Orlando e Rinaldo hanno difeso dagli attacchi dei saraceni. L'accompagnatore professore questa volta si trovò veramente in difficoltà, perché come faceva a spiegare a mio nonno che mai nessun saraceno era arrivato sotto le mura di Parigi e che quello era un falso storico, che mai nessun saraceno era arrivato sotto le mura di Parigi e che quello era un falso storico. Allora ci inventò una scusa per cui non era possibile andarle a trovare e ci disse che oramai erano così antiche ste mura che si trovavano sottoterra. Mio nonno faceva il suo mestiere con fede. Mio nonno faceva il suo mestiere con fede. Campione facevano. data battaglia. Oh bandito, due giorni di feste, danze, giostre, divertimenti, a desinar si vada, tira di sotto, e con un colpo di scimitarra, strappa il cuore fumante dal petto. E poi negli ultimi anni ha aperto un teatrino in via Giagna al numero 62, anzi una volta era pure 60, e in questo teatrino, oramai che si trovava nella parte della città cadente, c'erano tutte le case cadenti. Allora mio nonno dice: oramai che i cristiani non ci abitano più, hanno poco i cristiani sinnero di sti case, non ci abitano più, ci hanno dato le case popolari, però non a tutte ancora le case popolari ce l'hanno date, perché un poco risparuti i cristiani che ci vivono a ste case cadenti ancora ci sono. E io allora faccio giusto giusto lo spettacolo per qualche turista, per qualche sparuto appassionato e qui qualche scolastica che mi viene a trovare. Mio nonno, finché si è sentito le forze, ci è andato ad aprire. Mio nonno è morto il 18 agosto del 1981. Che ora non c'è più niente. Che ora non ha più senso riparlare del teatro di marionette. Che ora non c'è più niente. Ma che, come c'è scritto sul calendario, di tutte le cose che finiscono, non tutte muoiono. Tutti sono finiti, tutti sono scomparsi. C'è un magazzino, un negozio che ha le buche, sono tutti scomparsi. Non c'è più niente, niente, è già tutto scomparso. Non c'è niente più da fare. Non odora, è vecchissimo dato. Niente, non posso ricordare che ho niente. Niente, non mi interessa più niente. È finita questa cosa. Non c'è niente da fare. Sono tutti scomparsi, non c'è niente più da pigliare. Niente. Non mi ricordo più niente. Più di 50 anni. Più di 50 anni. Si andava da non pagava niente. Niente, niente, niente, niente. Non c'entra niente. Venite queste notizie. Niente, queste iniziative sono finite. Dietro le marionette sono finite. Non c'è niente da ricordare, non mi interessa di niente, non mi interessa niente, è finita. Questa vita è già finita di parlare di pupi. No, non mi interessa più, niente. A discorrere di essere libere di ogni civiltà che ci sia. Niente da fare.